Moro questa fase io volte in un tono, mica sottotono, sei il mio sopra, il mio vorrei, tu sei la mia lady baby, I'll go with you crazy. Ho il mondo in mano e sono sotto sclero, come la mia crew un mistero, vogliamo sopra un foglio di stagnolo nero, ero un eroe che ero, ero di te, miri, ti ho perso tra i miei miraggi e i miei respiri. Tu mi dicessi che ero una bici, accettai, accettasti me come oh, mi fai venire baby, quando fai come come bitch lady, tu sei un po' crazy, ma mi vedi, sono lazy su questi versi tesi, il mondo in mano, and I'm gonna crazy with you, I wanna fuck with you, give me a chance to explain, and I'm a man, hey baby, dammi soltanto dei versi meno persi, io ti darò tutto quello che cerchi, ma sei te la cosa più bella che c'è in me, che è rimasta per versi persi tesi dentro a questi crazy, credi che io canti versi per niente, no, tu sei me, un mondo di lacrime, di rime, di crazy, vorresti avere i miei versi tesi, lesi, audio come dei versi, torno un lampo, io meno disperso di un tempo, ora sono un genio, vado meglio al tempo, perché seguo lento questo movimento, chi c'è dentro di me, sembra che stai cercando la parola più bella che c'è, da la mia ventesima meraviglia che io cercavo, lady, miri, mi fa venire i brividi, miri dentro di me, non puoi attaccarmi perché ora sono in love, love, love con lo, sto cantando sopra un pezzo, un quadro di Miro, baby, vedi, questo atteggiamento non mi piace, però sono il tuo quadro di Miro, vedi, ti farei vedere visioni in cui tu non credi, che ora vedi miraggi di me, baby, apri gli occhi e vedrai versi che non toccherai se non conai. Vedi, io alzo gli occhi dentro al cielo, vedo che te sei un mistero vero, vero, vedo un granello di bianco che blu, forse dover trasformare questo bianco in blu, cercare ogni verso disperso, perso in un tuo giorno più perso, disperso, terzo della lacrima al vento, c'è il mio verso che cerchi, che segui, vedi, ti sto ascoltando come testi di scegli, ehi baby, stai cantando la mia canzone, la tua bocca è come un bacio che vorrei avere ora, e sei il vento, questo per me è un bacio che non c'è, quel miraggio, l'isola che è Peter Pan, io la tua Wendy, voleremo mi intendi, intendo quello che mi hai regalato, è stupendo baby, io non vorrei dartelo indietro, vedi, potrei vermo crassare assieme, questo è uno scemo, gliel'ho detto in faccia, gliel'ho letto in faccia, quando tu hai detto fuori come uno spaccio, sei come un drago dell'ipo, vedi, questo principe azzurro, ma non so però, vedi, a me piace il tuo drago perché sei signore, principe delle fiamme, ti hanno trasformato e ora mi dà un bacio, ti trasformerà di nuovo nel mio principe, ma avrà le fiamme ai piedi, vedi, quel freddo che tu senti è perché non mi ha mai avuto, mai toccato, non ti ho dato l'opportunità di volare dentro me, cazzo, stai cantando la mia canzone per me, vedi, c'è, ma non possiamo stare ancora insieme per ora, dici te, e sei la cosa più bella che c'è, mi sta spingendo con un treno, e vedi i miei versi si tingono di lacrime, di scene che era il mio ispiratore, ora sei te, vedi la cosa più bella che c'è, ma voglio averti, voglio averti, lo dimmi se mi ami ora o non ti penti, non mi penti, tu no, non ti penti, saremo insieme se non col corpo, con l'anima, allora perché non farlo, vedi, saremo come due già, ma i cani con le nostre canne tra le mani, vedi, questo verso l'hai rubato a Sceni, che dice che saremo la coppia più bella del cielo, vedi, vedi, io sono lo sway dream, vedi, che tu cerchi, sono l'uomo verso sperso nei versi più tersi, sono una lacrima senza te, sei la cosa che manca, vedi, vedi, non sono e non sto andando più in crisi, crisi, io sono tipo un miracolo, i versi per te mentesi, sono la tua soluzione di guai e di versi che perso nel vento, oramai ti credo come fossi Sinatra, ti credo forse come Frank Sinatra, per me che ti vedo sei la cosa che non ho, ma che cazzo lo mi dovevi amare, però oh, non so se mi vuoi, io ti voglio più che un quadro di Miro, se l'opera d'arte più bella che ho è questa nuvola che passa, è soltanto passeggera, però mi ha insegnato il mio amico a camminare con te. Non ci vuole dividere, nessuno mi attacca se penso a te, ora no, ora tu l'ami, vedi, io ero una donna sola che cercava il marito e tu mi hai aiutato, trovato, e adesso tu ti meriti, ti miri e miri, canta per me pure una donna per noi, vedi, tu mi ami se mi vuoi tra gli sferi e i lori, non nominare più, ok, cantavo per lui, andata via, via, ero io che dicevo via, via, e tutte le tue notti di periferia torneranno in centro, il tuo canto sarà con me, ma senza me o forse con me, non so se mi intendo, ruendo il mio cuore, mi intendo soltanto di te, sono l'esperto di te, la cosa più bella che c'è, posso non volerti, darmi, darti, darti da fare, come fare, e questo come si fa, come si fa a cantare col cuore per traspirare una canzone, vedi, ci sono versi che cresi, tesi, tesi, audio che son meno lesi, la mia cicatrice sicura, versi curativi immersi, terzi, oli di Lorenzo, sti versi li devi far sentire a un dottore, sono troppo diversi, me persi, tu che di me ti fai una ragione, sì, viaggi, non sono più viaggi, ora sono io che ti parlo, sei lo genio della lampagnola, di non il mio sguardo, ora apri gli occhi, tirali in alto, ascolta degli angeli in canto, ascolta degli angeli in canto, io l'abbasso, tu sei la mia medicina, la mia perla, la mia gioia, la mia follia, la mia psycho, ho detto che ho trovato il miglior pensiero in un prato e ora l'ho seminato come quell'amore che nessuno conosce, quell'odissea di Achille e cicatrice, tutto questo all'oro, tu sei la mia lady, in questi versi tu sei il mio angelo oscuro, il mio vampira, sa che tu fai una rima più terza, se non sei con me la lacrima da solo e si beh, sono il tuo Piero, mica sono, sono un killer del tuo cuore, vorrei il tuo amore, e adesso dammi tutto te stesso in una canzone, durerà un'ora questa palpitazione, io sono il drago dell'hip hop senza competizione alcuna, digiuna la mia anima qualcuna, voleva amare me, scusa per la tosse, la sigaretta si fa sentire, senza te ne fumo un milione, ci sono cose che ho lasciato alle spalle, tipo questi quadri che pane, io dico, vorrei soltanto cantare senza citazione, oh, più forte il mio copione, io sono e sono stato storia, la scuola boh che noia, non ci andavo, facevo sega ogni volta una troia, mi cantava sta noia, io dicevo boh boh, faccio canzoni più belle con il dito mio, loro e tu che sei per me più bella dello stesso Gesù, sei la mia madame che cerca il suo Socrate, sei la mia idea che si fa loca quando sei nella mente te, e ora splendi, splendi mente, fai splendere lei, angeli cantano per te, mentre abbasso lo sguardo e lo rialzo per lei, soltanto per lei, i miei occhi celebrano cieli neri, veri, sono cupi, come fanno le nuvole di questi astuti ancora a parlarti, non vedi, i versi sono muti, perché non è me a fianco, è soltanto un tuo viaggio, sì, eppure se fossi con me sarei il genio della lampada, tu il mio real dream, desiderio che ho strofinato, real things, tu sei il mio anello che tengo nascosto sulla mano, non devono sapere che tu sei l'animo, avrò vissuto in vano, ti ha rubato quel finto principe che invece è un drago, io sono drago dell'hip hop ma principe delle fiamme, dammi un bacio, mi ritrasformerò e il mio inganno sarà smascherato, ho dato l'amore a tutto, il calore a tutto, e non è vero, ero solo un ragazzo un po' drogato, adesso smetto, smetto, riprendo la macchina, le giuro, e appena torno sarà perfetto, e forse non serve neanche quella, serve avere il cash in tasca, poi Barilla, passa Barilla, famiglia, non so se hai notato la rima con piglia, fibra mica biglia, tu sei un grande fra, hai cantato per tanti, forse per me, ma io metterò i tuoi guanti per amare lei, toccandola meglio delle frasi di una strofa più della psicologia, che nota ho preso in questa nota, solo liricamente tutto per lei, e lei per me non sarà, o forse sarà, il lutto del ricchi mi ha preso, il mio amico se n'è andato senza dirmi perché, tirando a piedi, io sono un bravo ragazzo, ma è diventato pazzo, pazzo di che? Pazzo di diventare quello che il mio amico voleva, perché volevo dimostrare che era possibile un sogno impossibile e realizzare qualcosa che anche lui aveva in mente, non particolari di rational, I never see his test, he's never seen his wise, I never see his invention, I don't know why, I have in trouble with my mind, with my old friend, cause he's a boss and I think he not understands, and Francesca che era la sua tipa, ho detto no, la mia vecchia ex che era sua, lei mi ha detto che era roba mia, strano che la follia avesse detto no, proprio un fulmine come per magia, mi ha schiacciato, sono rimasto a terra col volto, poi l'ho alzato, un flashlight è partito in miri, ti ho beccato dentro il cuore, io frate sono un carro armato, tu uno studente, scusate, forse valgo per due, o forse voi siete carro armati, io Tiananmen. In piazza ero come uno studente disteso sotto carro armato 2. Non c'è mica da criticare Lorenzo, questo tempo e penso, e penso, e penso, e penso a qualcosa che non ha forse senso, ma se fosse senso sarebbe il tempo di te che sto cercando in rime astute, più astute, più furbe. Io vorrei tutta la furbizia del mondo per farti mia. Dimmi che saremo di sesso e di cose, una notte di follia. Miri, bella come una stella, e anche se il mondo non ti guarda, io mirando te miro. La cosa più bella, sei angelica e vampirica, ma loro non sanno che tu fai cattiva per essere cattiva in un mondo che senza il cattiva ti butterebbe a fondo. Non stare giù che sei brava, cazzo, l'ore mi hai tolto dalla strada e ora vola la mia anima. Miranda, tu sei per me il cuore, sei più variegata di una standa. Rubiamoci una stagna, andiamo via, via da questa fogna. Credi, io non vedo niente di quello che dice o diceva quel vento del merda della gente che è indifferente a me, mi vede solo. Io sì, sono solo, ma solo un uomo che ama te, ti darei tutta la vita, ti darei tutta la sogna che ho in testa. Se fosse così, staccati, avremo un tempo insieme, perché non è così, ma nella real life che si sta veramente insieme. È il mio del cuore, tu potresti essere altrove, non è il vicino, la vicina o di ogni malumore. Vorrei pensarti senza dolore, per averti meno less, ma più plus. Tu sei il mio fango, il mio pongo. Vorrei dipingerti, scolpire una scultura che ti faccia un tondo, e tu mi doni il cuore di un leone su una traccia. Potrei cantare di te per ore, ti conosco come la mia tasca che senza money, ma me ne frego, io sono ricco dentro di te. Quando ti penso sei la cosa più bella che c'è, rimiro l'immenso, immensità del cuore, anche se le parole vengono dal fondo, ci vogliono unire, è un cancro che c'ho nella mente, la cura si te, non c'è placebo, medicina che tiene, tenga, io vivo in una sogna stagna, fisso come dentro una stanza, ma bisogna vedere qui chi è il kinder rap, ti mette in una room la soul che fa per te. Sono in studio e quando canto, e dove canto, sono cazzi miei, è il tempo che dedico ai miei versi, alla mia missione di amare una donna, oltre ogni fisso copione prestabilito. Non sono un copione, la mia anima è originale, ho solo una visione qui con te ora, ma man, tu sei con lei per sé. Hai ceduto la tua anima per lei, che vedi, tu hai voluto soldi solo per amore, per mantenere un tempo un figlio, ci voglio il cash, ci vuole slash, io suonerò la chitarra con la bocca meglio, meglio di tutta quella cosa che non sono Caparezza, non ti avrò lui perché io non voglio una stanza sola, vorrei vederti girare per la stanza nuda e fare l'amore, copione. Io sono bello, sono la dannazione, sono l'angelo che se nudo sembra un adore. Io sono il Lucifero, la vanità della redenzione, la sua creazione io vorrei mutare, che dannato agli occhi di Dio io non vorrei più stare. Ma tu sei la cosa che ho creato un po' più sotto del dono divino di vederci doppio, e tu sei il mio doppio sguardo. sei i miei occhiali, il mio successo, il mio miraggio, il mio guardo, e più ti guardo sono il più figo dei tre quattro occhi. Io sono tra il padre che salverà il figlio da tutti sti orchi. Hanno gli occhi storti, non hanno mica gli occhiali del successo. You never see a people with success running for air. This is my blade, this is my song with an angel of race stops, and I'm a overrain, and I'm a try to shine your name inside of me, cause I'm a dream, but you are me reality. This is my thing, this is my growth. You something say, you have the notes, you have the know about my growth, about the rapper growth. Say please tell me baby, go, let me go crazy for you. You have the logic, oh, and I'm the fantasy. It's this time, the era, let crazy time. Of the magic of the blind, I know my real road, and I'm a fantasy grow with you, and I'm a special, I don't wanna lose you, I don't wanna switch you, I don't wanna switch you. And I'm a Zen. and I'm a Shaolin of seeing equilibrium. I'm myself to you, baby. You are my sanctuary. E io ti sposerei. Miranda, vuoi prendermi per marito? Io e te voleremo e ci basterà quella stagna rubata alla standa. Non avremmo bisogno se non di cash, del nostro travel around the world on the seven seas. And if I'm an estuary of my reality, cos'è reale? Lori, sono io. Tu vuoi la carne mia o vuoi il mio oblio? Tu sei il mio real che non riesco ad avere un momento insieme, please. Un momento, non memento. Un momento vero e non memento. Cerco l'assassino di me, te dentro me, ma non c'è. Quell'assassino sono io. Vedi che non ti ho preso come perché c'è la cosa più bella che c'è, lui, la stonata storia che va contro me, te, anche se è un amico e anche se lo stimo. Non voglio più avere nessuno vicino se ti ho perso. Vedi questo verso, senza te si fa perso. Gentleman, lasciami la mano. Io, lasciami la mano, toglimi la mano. Lui ti deve lasciare la mano. Io non sono povero, anche se lo fossi, vorrei soltanto te. E ti stringerei, ti correrei, ti infonderei la voglia di correre con me, di crescere col coraggio e sarei meglio della spada nella roccia sfilata con me degno. E questa è una rapina a mano armata che ha sfilato questa spada, sono io. Anni fa ero perso nell'oblio, vedi, ho una spada in mano che è una lady. She's go for the money's crazy, cause you ever don't ever eat the infamity over the hill, hill, hill. She's the best evil chronic. He ever frank with a friend, cause I'm a frank and I'm a rock. Man, please understand why. Cash me cash, cash me cash for her. Just cash me, cash my pain. Just pay me the way and take all my breath away, cause I'm a ever real. This is a real talk, this is a real fall. This is my chronic, this is my running. But I'm a crying like a Piero. If I'm not a hero, never you have or man. You are right for me, cause desire me, cause he's your friend, say right. The zero is the translation of my stars, and you my stars, baby. I won't translate the desire in a real army. The mirage of our miracle hero, you. It's just a black miracle crew. Yo, the devil coming to my little eyes. Yo, my big surprise. For you will the shine when I fuck with you. For you and you for me. Lady, siamo fatti per la sweet things. Non preoccuparti che sto di tira ancora tipo stime qui. C'ho le palle di Benicio del Toro, un 15 di tap sul mio cazzo quando è duro, puro. Io sono un B, ti faccio paura tipo Benicio. crucifisso nel fin di Licio, santo e sono più santo di Benicio del Toro, quindi metterò il guanto fino a che vorrà il figlio con me, se questo è il problema, ma tu sei la cosa più bella che c'è, c'ho il DNA giusto, ma c'ho un errore nella schiena che è frusta, è giusto fare un figlio improvvisato, allora che ti devo dire, sarà la cosa più bella che ti posso dare, un figlio con la mia mente, uno con la tua sanità di corpo, e anche te che hai la mente più bella che c'è, magari un po' cattiva, ti fai grande, e questa è la grande sfida, man, ci siamo dentro tutti quanti, io miri e scusa se c'è guanti, e se li tiro fuori farò botte per te, tutti close, che cazzo volete da me, siete tutti close, tutti come se fossi Matrix, siete Ice, miei feeling, io voglio fare, voglio lei, yeah. Sono pronto a combattere, freestyle per lei, chiunque salirà sul palco sarà cenere per Fenice, e magari si risorge e ricurerà come quel frocio una cicatrice, io l'ho già curata, lei è mia, l'ho conquistata, è il mio palco, la mia vendetta privata, io sono il corpo 4, le tirerò fuori dalla vena la droga, io accenderò una canna, tu tieniti in fibroga, yo bro, che cazzo dici, io tiro via i guanti, fatti da parte, se sarai pieno di cicatrici, sto flow non lo sai fare manco, se lo ripeti con me non lo puoi dire, non lo dici, quanto io e lei stiamo bene assieme, non puoi dirlo, non puoi farlo, non puoi dirmi che sono un tarlo, lei è anima, per sempre, anima, dentro un'anima, dentro un cuore vuoto, c'è lei, lei è il mio tutto vuoto, pieno, io sono sempre stato sceno, non sono turettiano, sono solo, mi sono solo fatto una sega, e sei tu porco il vano, io ho avuto donne bellissime, ma lei, è sempre questo lei, per me, tuo marito dei giorni miei, se fosse dentro ai guanti miei, che dici? Ora sono il suo psichiatra, il suo dottore, il suo Sigmund Freud, se come vuoi, tu dici, beh allora cash mi cash, e non pare più guai con me, io sono Evil Man, dentro una traccia sono Hellboy, con un corno rotto, cazzo vuoi, l'ho dato ai Rich per essere ripagato, lei è una tempesta nel vento, è un miraggio, è Morgana, la mia Dana splende, farò anche le pulizie per te, se io mi sono sempre abbassato all'umile, per avere un'anima nobile, e come Lutero il lavoro ripaga, frega un cazzo, sta canzone avrebbe disintegrato gli outsider dentro un premio strega di un altro, io faccio un salto, ti ribalto, io faccio capriole indietro, poi atterraggio, lei nel cuore, il mio equilibrio, onore, vedi, avrei in mano per sempre una 24 ore, vedi, coi soldi dei miei andremo a fare Seven Seas Now, You My Crown, e oggi è il giorno del papà, te lo spiego, così chi mi dice usio father annegherà come un negro, ti è fatto un culo peggio di un negro, e vedi che io uno scontrino ci ha discriminato, ma bla bla roba del passato, tu sei passato, passatistico, un passato di verdure che ho già cagato, la mia zuppa è tipo quella del Ricky, c'è dentro biscotti, merendine, medicine, la mattina, please, dottore, lei è la mia cura, ehi, ehi, sei matto per me, e io di te dentro qua realizzerei quel film Mosè. ma il mio film è più spesso. Io sono un pittore di successo e il mio successo, l'unico trofeo che vorrei sei te. Sei la mia dance, damn, damn, lady dance, nobile. Tu che hai lavorato in studi, non vuoi fare la fine di chi studia, poi va a pulire i cessi come me. Oggi mi rialzo, chissà perché. Il mio successo migliore, come se avessi vinto il premio Sgarbi. Mi hanno selezionato come tutti gli altri, caricato la mia proposta online. Hanno accettato un quadro di 4 metri in ora, è mica un caso. Tutti immagini, sto caso, mi dividono 1000 euro dal premio Michelangelo a cui mi hanno invitato free. Dopo la selezione win, come se avessi vinto, pugno in alto come Black Panthers. Io sono il brown nero, io sono il flow sclero, io sono nero nero, io sono la ribellione in todo il mondo. Io sono un giro tondo di anime, il mio sogno è danzare in questo mare. Vedi, se il vento tra le mie vele, lady, io sono tuo e quindi nella stessa direzione andiamo, e perché quindi continui. Vedi, ho un pezzo da cantare con tutto il cuore, tu sei sul mio altare, io sono il tuo onore. Non voglio morire, non voglio morire, dottore, mi dia la guarigione. Se l'amore è il dolore, io voglio di lui la passione, e questi versi più tersi sono la mia rincorsa, l'ultimo treno che non voglio che commiri. Io voglio prenderlo per te, per quei versi, i tuoi capelli al vento fuori dal finestrino, quei versi di chi vuoi. Io amo la musica, lo sai, amo la musica e l'amo più dei guai, anzi amo lei come se fossero i miei guai, e mi riconosco in ogni canzone che dici, che dici. Si piccia lui stanotte, vieni da me, che ne dici? Tu lo vuoi, tu non vuoi, tu non cerchi, tu non sai, non sai come darmi, non sai come fare, non sai come venire. E se tu volessi veramente me, saresti già qui correndo. Lei mi dice sempre oui, intendo, e se non ti vuole lei, man, dopo sta canzone ci sarà fuori la fila, manco come i Beatles. Per favore taci, non c'hai le capacità che c'ho io, taci, i miei lacci ti legheranno tipo stracci a terra, non puoi diventare suo marito. Fregatene, dottore, tu hai messo i guanti per lei e ora sa quanto gli vuoi bene. Oh, si versi sono tutti sotto il set, vorrei chiederti scusa per il vissino oggi. Oggi sì, oggi, oggi sei quello che volevi, quello che repavi doveva, il tessere intrinseco di lei, hai trovato la forza e l'attitudine vera. Oggi, oggi, non tutto è facile quando così la spingi sta storia, quindi cazzo spingi di più, sono pieno di gloria, la mia noia si te, piena di boria, e sono un essere danzante tipo Fangatustra, tutta a me è mia la giostra, inventato sono i miei pensieri che nel vento vanno, che ho io modificato nel tempo, e la mia sta per impazzire dentro la mia mente, mente, mente, tornare e dire verità, che bugie non sa finire. Il look cosa faceva? Non è vero, non è il premio strega, non è vero che lui si annega, non è vero che l'amore crepa, non è vero che di dentro sclera, non è vero che c'è dentro, è solo un lamento, dottore, mi dia la guarigione per togliermi lei dalla mente e fare finalmente l'amore con lei. Dentro i sogni miei ci sono parole che detto che fanno male, parole che detto e non sai tornare, torna da me, Miri, torna da me. Ho costruito il suo nuovo sogno in tanti anni di bisogno e derive della mia mente. C'era un poster in più nella stanza la prima volta e avevo e mica ero un demente. Questi adulti trasformano il genio in un coglione e gli danno sia del coglione che dell'onnisciente per fare upside down nella mente. Non sarò figlio di Down, il sesso non è New Down, io sono quarto Down, in questa roba sono Van Down. Io ti sclero, ti spezzo, ti scopro, ti faccio tipo manicomio dentro un orgasmo, sono un tuono, io che c'ho un diamante, che tutta questa sono diventi brillante, illumini la tua pussy per sempre. Vedi, lady, cosa ho fatto per te, io sono un mago, udini, canto questa base, solo la TV non mi piace, come la televisione, come la radio, come di André, rifiuto di suo sistema, fatto tutto di business, e tu saresti scema, tu, ma io sono e voglio essere la tua puttana, perché ti ho fatto aspettare, ti ho fatto provare dolore, mi è venuto da dire, e questi versi non sanno d'amore, ma chissà come mai non perde il senso la voglia di te col tempo che mente, ma attaccheresti comunque sempre, ma sei sola con me, te veramente, come quello che mente, che non vuoi far vedere alla gente, baby, io so che problemi con Elvis e con la tua cara gemella, che non ti cagano e tu sei la più bella, vorresti essere amata come quella che cambierà la loro vita, mamma mia, voglio vedere, voglio uscire da questa morire. Mamma, sono un tuono, veramente di un uomo che mi ha amato in vano. Ora lo lascio, ma ti lascio solo per un momento. Vorrei che cantassi a stento il resto della canzone per capire che senza te non sono niente, lady. Vedi che mi conquisti, ho sempre pensato, lady, nelle notti ubriache senza, ma non mi sentivi, cosa sentivi di me, Clary, e così erano senza te, meno, vedi, Elvis bis, disse disse tuo less less, e fango tu stradance dentro dentro less, per cercare il pass di te, io vorrei Nintendo Game Boy Plus, oppure Nintendo Switch Pro, bra, this is my game, this is my meaning, ho giocato a basket, sono un ex boss, come vedi, ci sono persone che come me dicono di essere, lui ha vissuto per tutti e non si può dire perché, abbiamo capito, l'ha fatto per sé, ma io ho fatto per me il mio mondo, lo rivendico tutto, rivendico tutto il mio lutto, che venga pagato in cash, cash, as for as cash, e ci sei te, lady, le panocce nel culo, baby, ho trasformate in as cash, baby, I'm going crazy on the verse, this verse is your phone, is a track phone, ladies, this is the new school, when I go to new school, era già new school, e non lo sapevano, l'hanno capito dopo, dopo 20 anni, Flashlight è diventato di moda, dopo 20 anni, Bulle e Basi mi hanno seguito, hanno fatto bene, tra gli screen, tra le scene, tra le corse, tra le sere, tra questo e quello che non vede, che vede, e poi no, e poi sì, e poi c'è ragione che non lo so, ma so solo tanto che so soltanto che io sono un mito, tu fammi il dito, ma se sto mito su questa base, il mito è la bella è la bestia che si fa clean, clean, clean, versus on against, versus disverso, and not a near tissue to claim me, give me a tissue, but by dream come true, give me a cash tissue, and I'm a poor without my friend, and I'm a poor without a hurt. sotto gli occhi Prada e faccio finta di avere già in tasca un premio Strega, il premio Sgarbi. Vuoi invitarmi? Ti faccio un freestyle, ti sparo dardi, i codardi scapperanno via, lasceranno il palco solo la mia follia. Io sono il genio, la malattia, il genio riconosciuto tale soltanto dopo il gran gioco del male, della follia che tutto assale dentro di me. Se non sarai mia sarai te. Lui è lui che se ne va, tu, you over me and over your son, cause me you are my son. Baby, ho dato un posto a te in alto che vedi, splenderai sopra le genti povere. Digli solo che cresceranno col cash, li fottili col cash, vedi? Così si fa, così si fa. Mi dico da solo, I blend my eye for her. To let you see my life, your life. To let you dream, now you can fly, you can fly. I made you fly, ladies. I made me go crazy. I made me, I'm a bitch, cause I wanna make you my ladies. Sono buono, sono dono, sono pappa di te, tu sei la pappa per me. Io che ho fame, io che digiuno d'amore, io che sono infame, ucciderei per te. Finché avrò fame, fammi diventare un buon uomo. Dammi il dono della pace interiore, il dono di avere l'equilibrio del mondo dentro di me a fondo. Terzo, quarto chakra che splendono, questo è il dono. Tu sei equilibrio, ragione, uomo. Dagli spazio, dagli tempo, dagli il tuono per lei che doveva averlo per farla splendere, stupendo. Allori, dammi i tuoi allori, io scriverò per te la poesia più bella, le poesie, la miriade di follie, di genio, il tocco, il filo di capello biondo sparso al vento, il dono. E miri come tanti che ti dicono, io ti do il dono vero, fra, ma ammazzo pur per essere divino, ti prego mi inginocchierei se non avessi il microfono. E questo non è il mio psicologo, forse non è il mio medico, forse non è il sociologo, forse è tutto quello che vuoi che vedi te in questo cazzo di microfono. Per me è un terzo dono, è la terza parte della conoscenza, la comunicazione, il filo teso tra fantasia, immaginazione, ragione, follia. Vedi, non ho paura, la mia voce va oltre ogni cosa che l'uomo possa dire, perché l'amore sfiora il cielo con un dono e la ribellione. Io sono una ribellione totale, un disastro totale. Sono senza te, senza mare, senza qualcuno, senza il digiuno, senza. Tosse di una sigaretta estetica, senza te fumo troppo. Prima era solo una paglia prima dell'orgasmo, era una paglia dopo l'altra citando. Prima citazione, man, per favore, chiedi a me, a lei l'amore, se tu intonate, bella questa canzone, era di cuore. E lui ti sfonda il letto, beh te lo sfonderei anch'io, ma mi si sfonda il petto, adesso no, è lui che è morto. C'è una cicatrice del rap sul cazzi tuoi, sei un DJ, torna da me con i miei testi, vedi, lui mi detesta e tu lacrime e versi, quando la istighi a lei, lei fa versi più persi, le bimbe piangono, lei piange, ma con i miei versi si commuove diversamente, tu versi lacrime più belle, quelle che dilavano, quelle che asciugano, quelle che stringono fra il cuore e la pelle e rendono le donne più belle, le lacrime felici, quelle delle stelle. I'm feeling awake now and I'm proud of you ladies and I'm proud of every baby's in the school sound. My instrument, my doom. I find you a place in the world with my friends. La scuola di musica, la devi perché? E se non posso avere figli, beh, ne avrei un milione. E se non posso avere figli, beh, avrei almeno il mio cuore. E se non posso avere figli, faremo un'inseminazione. Se non posso, beh, è solo questo l'errore. Loro lo citano mentre tirano dal naso. Io li faccio saltare in aria la coca sparandoli dentro. E se tu mi pensi ancora, non puoi che non volermi. Sono un angelo che vola, prima assento, ora gigante. Le mie ali vere sono i baby e ogni baby poi piange quando Lorenzo si sente male. Thank you.